Sì, no, è bello. Le case di pelle, che poi sei vicino, non è che dire sei in campagna a 3 km, 10 km, sei attaccato alla città, per cui un attimino un tiro di scopo, c'hai tutto a portata di mano, ti puoi muovere quando vuoi. Lo so, Roberto, la prima che avevo visto che stavo facendo una pazzia, avevo già predisposto tutti i lavori, fortunatamente ho fatto delle prove così con la radio e in pratica non sentivo niente. Sai cosa vuol dire non sentivo niente? Che accendevi la radio sia in V sia in U e anche in HF, sentivi solo, vedevi solo la portante che andava a 9 più 10 e sentivi così, ripetitori. Ha detto no, non è possibile qua. È andata bene, ma bene che poi ti racconto bene più che bene, perché se no mi sarei trovato nei casini senza poter avere radio. Tu immaginate che Antonio di Monteoro, non so se l'hai conosciuto, Antonio Achilli, che è radioamatore, se l'ha venduta la casa a Monteoro, venduta, un villone da paura, se l'ha venduta perché non riusciva mai a trasmettere, mai. Adesso Monteoro c'è un campo elettrico talmente forte che annulla tutto, ma anche il cellulare, se passi sotto, direi la difficoltà anche in certi pezzi con il cellulare. No, dove stai tu, eccellente? C'è una posizione, a parte che è bello, c'è aria buona, c'è un bel panorama, c'è tutto. Cosa vuoi di più? Non c'è per nessuno, quelle zone lì io l'ho sempre detto, la zona più alta è Monte Bianchino Alto, e dove sei tu sono le zone più belle di Sassari. Lo so, ho detto anche Fabrizio che è una bella zona, mi piace tanto. Tantissimo qua, ma ho avuto un culo, ho avuto un culo, te l'ho raccontato, proprio parlando così con l'impresario, ci siamo trovati altri sbar parlando così, è successo proprio, finché ballacche, ho detto non è possibile, hai uscito, ma che come te la faccio vedere, cosa sto finendo, ed erano finite praticamente, c'erano i muratori, di cui siamo venuti, sono venuto con te, con Stefano, mi pare. Erano appena finite, c'erano ancora i muratori, stavano finendo dietro e tinteggiando all'interno, capito? Non l'avevo visto, non è possibile. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Sì, per te sì, va bene, allora facciamo subito. Fatto bene, anche c'è lì abita anche Stefano, l'amico mio, vabbè già lo conosci tu pure, quello che lavorava in quella roba dell'edilizia, si è preso una bella villa di lì, l'hai vista quella sua, di fronte a te. Sì, io sulla cancella Stefano ce l'ho 50 metri a sinistra. Anche lui ha fatto un bel affare, una bella casa, un bel terreno, c'ha molto panoramico, aperto, però diciamo mi piace più la tua, se devo dire come posizione. Sì, beh, la mia è fatta diversamente, anche perché è una bifamiliare, la sua è singola, anche se enorme, grandissima, però come posizione me l'ha detto anche lui, Jeff che è venuto Stefano. Mi ha detto anche lui che è molto, ma molto meglio, perché lui è molto più nella strada, capito? È più basso anche di me, ma è molto più nella strada. Invece io sono molto più in alto e insomma, vabbè, comunque è una bella zona. È una bella zona. Mi sto abituando, Roberto, devo dire la sincera verità, mi sto ancora abituando. D'estate è da paura, d'estate sono stato di un bene. Questo è il primo inverno, mi sto ancora abituando, però la casa è calda, sto bene, non ho nessun problema. È chiaro che quando piove puoi stare solo sotto la veranda a fumarti una sigaretta e vederti il panorama, altro non puoi fare. Sì, ma te la godi da mattina in poi con la casa, che stai fuori, bello, quando poi gli altri vanno un bel di gallo, tu sai, bello al fresco d'estate, no, bello, niente da eccepire. Quella di Stefano è bella, grande la casa, no, ma c'è un bel terreno, però come hai detto tu è troppo aperto, si esibilia tutto il caldo e tutto il freddo, tu invece c'hai una parte in ombra, per cui a certi orari, quando lui ci avrà male il sole in pieno, e tu ce l'hai bello riparato, sì, a parte i venti, soprattutto i venti, lui c'ha, e poi è troppo vicino alla strada. La tua è un po' più riservata, c'è sempre gente, soprattutto che è quella importante, perché se lui se ne va via per dire una vacanza una settimana, la casa è vuota, non c'è nessuno vicino, tu invece c'è sempre gente, è quella importante. Ma già lo sapevo, se gli hanno fatto a Stefano, ho bruciato la veranda, proprio perché se ne aveva di ferie, lui c'era la casa anche ad Alghero, e quindi, capito, è arrivato e ha trovato una sorpresa, un dispetto, mi ha detto, ma non sa, non ho mai capito il perché. Comunque, via va bene, eseguiti ricchi, così, e basta. No, ma lui ha visto anche la mia veranda, ha visto la mia come è fatta, alle due arcate, no? E mi ha detto, cazzo, la tua è molto più fresca, nonostante sia aperta. Proprio come hai detto tu, perché sull'altro lato io ho il muro di recinzione che copre un po' dal sole, capito? Però davanti lo prendo, ma d'estate ci sta l'addio sotto la veranda, c'ho qui due salottini, se vuoi sapere, girando il chivi a berretta in mano, ciu. Sì, accendiamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, avanti su 10, chi c'è? Ciao Carlo, ben sentito, Santiago 7 qua, avanti Claudio. Ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato, non so se mi ascolti o sto usando la radio Baracchino, cosiddetto Galassia Turneco, i vatti sono circa una ventina, 15-18 modulati, mi ascolti? Sì, allora non abbiamo perso, dai, allora siamo sempre le torri, va bene, anche tu, S5, S6, un po' più basso di Roberto, però è normale, lui c'ha l'apertura un po' più verso di te, ma comunque io ti ascolto benissimo alla grande, non ci sono problemi, vai Roberto. Ehi, a Carlo, stai rientrando da lavoro, hai finito? Quindi lavori 31. Ah, meno male, dai. Così non ti bruci l'eventuale cenone di Capodanno. Ok, dove sei arrivato adesso, Carlo? No, ti ascolto benissimo. Quindi l'antenna è pronta a piazzare, il palo l'hai sistemato. Dove metti i bulloni, bagna di grasso, metti tanto grasso così se devi smontare è più semplice e non ti crea problemi. Vai Claudio. Ciao Padre Rogero, sì, infatti il tubo non badare a mettere grasso sulla bulloneria, l'antenna non mettere assolutamente niente Carlo, soprattutto dove ho fatto l'assemblaggio, insomma, dove è già pronta, metti solo gli innesti che ti ho detto e poi vulcanizzi una volta che hai fissato con le viti, con la vite e con la fascetta. Del resto non mettere grasso nelle barre, nei connettori, sul telefono, non mettere niente, nulla di nulla, l'antenna non mettere niente. Il palo, la bulloneria del palo riservati dall'acqua, capito? Ehi, a gamba, c'è butto, quindi non tenere niente, solo diciamo dove sono le pannelli. Esatto, io non ho messo niente, chi me l'ha venduta mi ha detto che non ci va niente, nulla, assolutamente niente. Non mettere neanche vulcanizzante nel PL, perché visto che non è in verticale il PL ma in orizzontale, quindi acqua non entra, ok, nulla, non mettere niente, fascetti e vulcanizzi dove innesti, dove c'è la chiusura delle fascette e basta, boh, no tocchese. Ma infatti, a me non me ne frega niente, io ti dico che te l'ho già detto, non ho manco vulcanizzata, niente. Quando si rompe ne mettere un'altra, capito? Come la macchina, no, io può durare 10 anni, quanto dura? 3-4 anni, quando non serve più si toglie e se ne compra un'altra, finita. Cosa stai lì a tira e molla intanto. Però ti ripeto, quella non ha problemi, non va mai in corto perché sotto, come hai visto, i connettori eccetera sono esterni dal tubo centrale, quindi l'acqua quando entra esce dal tubo di sotto, non va a toccare niente, è tutta isolata, fatta bene, è fatta veramente bene con l'antenna. Vai Roberto. Sì, a meno che non sei quelli che ogni anno nella sciacca cambia palazzo, appartamento e cosa. Se una volta hai fatto il lavoro ben fatto, non si tocca più come la mantova mia, finché dura rimane. Ce l'ho dal 2005, 16 anni ha fatto, e sta andando alla grande, grazie a Dio, facendo le corna. Di nuovo a te Carlo. E infatti, Roberto, anche io sono di parere che se la piace bene, unico solo serve, ma non si deve, la metti con tutti i criteri che la devi mettere, tutta più vulcanizzi solo dove sono le fascette, le chiusure e poi non ci pensi più, poi la tocchi solo quando o te la butta giù il vento o devi cambiare appartamento e vai via da lì e sono quei casi lì, se no l'antenna metti cavo buono, quello è importante, i connettori senza badare a spese, mettine uno che può costare anche 5 euro però ce l'hai definitivo, molto lungo il tragitto del cavo Carlo. Guarda, in totale sono 22-23 metri, anche se di cavo ne ho di più. Sì, infatti dico, non è tantissimo comunque, dai, non è poco, ma non è neanche 40-50 metri, però in ogni caso uso il cavo grosso, di quello bella, quella protezione bella importante, non cavetti di quelli che sembrano grossi e poi dentro non c'è niente, ci vedi il rame che fa ridere, la calza che è quasi trasparente, uso la roba buona e non sbagli, e l'ho fatto una volta solo la spesa, non saranno i 20 euro di cavo in più a rovinare tutto, poi se ce l'hai già buono, meglio così. Grazie a te. Sì, non so, che cavo hai tu, caro 213 o qualcosa come c'ho io, la Camille, quella roba lì? Se Paroni fa dei buoni cavi, anche se un 213 sicuramente sarà un cavo buono. No, io ho la Camille 213, ho solo delle ispezioni interne che avevo, ma sono nuovi nuovi, sempre di ottima qualità, però come cavo io ho 15. Immaginati che sono passato da quasi 50 metri, di 45 metri di H1000, sono passato a 15 metri di H1000, immaginati tu il guadagno che ho, infatti l'antenna lavora da Dio veramente, è un'altra cosa quando sei così vicino con le antenne, non hai perdite, non hai niente, vero? La Camille è più fino del 213 o l'H100, qual è dei due? No, è l'H100 più fine, la Camille è più o meno come il 213 ma è molto morbido. È più morbido del 213? Sì, è fatto diversamente, al centrale rigido, c'ha la doppia casa, poi il rivestimento con l'alluminio, un altro tipo di cavo. Quando dovrò metterla dall'altra parte, la 7000 col tralicetto, prenderò uno di quei cavi a bassa perdita per le frequenze, alte frequenze. Sì, beh, un H1000 più che va bene, è un cavo eccezionale, a me me l'aveva detto Marco che è un cavo buono, l'avevo preso. Ho preso una matassa a 50 metri, fatto il buono. Adesso in pratica quello che ho recuperato al carbonate che era nuovo l'ho messo qua, ma l'ho accorciato, ne ho usato praticamente neanche 20 metri, prima ne avevo 45 metri, quindi l'altro che ho recuperato l'ho usato per l'altra antenna e l'altro ancora lo uso per la 7000 o la 510, adesso vediamo. Vai Carlo, dove sei arrivato? Mi ascolti sempre, sempre, sempre, non mi hai mai perso? Anche a me, claro. A te, a Roberto, vi sento dall'aeroporto, dai parcheggi e vi sento sempre a Radio Bomba. Sono contento, sono contento, ma anche per questa radio, perché era tanto che non la stavo usando, adesso la sto facendo andare oggi, così è, va bene, vai Roberto. Dove sei arrivato Carlo adesso? Allora ho girato per Cagliari, sono sulla camionale, capito? Sulla nuova camionale, diciamo così. Sono un po' prima di dove c'è il deposito del gas Medea, capito? Su quel curvone che poi mi porta lì e c'è la discesa. Vabbè, un attimino che stacco la cosa dal fuoco, un secondo. Ok, no, stai arrivando benissimo, no, questo passaggio Carlo, benissimo. Gli altri passaggi 8, 7, 8, adesso c'è 9 pieno. Guarda, adesso io come faccio il curvone mi sto vedendo le luci di Sassari, quindi adesso faccio ancora pochi metri e vedo tutta la città, quindi diciamo siamo a contatto quasi, dai. Tu passi dai carabinieri, da Monserrato per andare a casa tua? Sì, io faccio sempre rientrando la camionale perché evito, è più lunga ma evito tutti i semafori, il traffico di Viale Umberto, quella zona lì, Corso Trinità, lì ci passo quando rientro molto tardi, ma a quest'ora c'è ancora traffico. No, anche io non ci passo mai, io ci passo tantissime volte per scendere giù agli punti, per altre cose, passo sempre 131, entro poi a Predanieda, poi quando devo andare all'Alghera, mai da Santa Maria, sempre da Coso, dalla Camionabile anche a Porto Torre, passo sempre da lì, raramente passo da Coso, dall'altra parte, molto più scorrevole il traffico, eccetera, eccetera. E quindi ci ascoltavi a tutti e due ai parcheggi dell'aeroporto? Sì, vi ascoltavo benissimo, non sono intervenuto prima perché ovviamente stavate parlando, anche se chiedevo preco magari non mi avreste sentito, sono entrato quando avete detto vediamo, mi sa l'hai detto tu, se c'è qualcosa. qualcuno, allora sono entrato, stavate parlando delle, insomma, della casa di Claudio, che io ho visto, è molto bella, spaziosa, c'ha tutto là, e poi un'ottima zona quella. Sì, sì, infatti mi ha detto, bellissima zona, gli ho fatto sempre i complimenti, non per dire, sono stato uno dei primi a vederla, e rispetto a dove abitava prima, troppa confusione, lui abitava in quei palazzoni, non so quante famiglie c'erano, penso più di 30-40 famiglie, forse di più, perché cacchio, erano 9 piani di palazzo, fatti il conto, non so quanti, forse c'erano una quarantina, e dopo chiediamo a Claudio che ce lo dico. Comunque ci ascoltavi bene tutti e due, puliti, senza le decisioni, QRM, eccetera. Guarda, è come se vi avessi qua seduti in macchina, vi sentivo e vi sento sempre bene, il segnale al massimo, perché vedo la scaletta che mi si illumina, diciamo, e la radio è proprio ottima, non vi ho perso un attimo. Cappa, mentre gli altri di Sassari qualcuno ci ha difficoltato. Sì, ogni tanto, secondo dove passi, voi anche lì, ti ho perso Carlo, cosa è successo? Anche io l'ho perso, buonasera. Chi sei, Salvini? Galleria, sono uscito adesso da quella galleria che c'è prima di Viale Italia. Ah, infatti mi stavo preoccupando, ho detto, cacchio, cosa è successo? Chi era, Salvini o tu sei? Ciao, sono Cristian, ciao, vabbè. Ah, scusa Cristian, non te lo riconosco. È a Guloni che non ci siamo sentiti. Ok, vediamo se a Carlo lo ascolti, penso di sì. Carlo per Cristian, avanti. Sì, avanti Cristian, buonasera, auguri, buon Natale, anche se è passato. Avanti pure. Ciao Carlo, grazie, auguri, buonasera a te. Per me Viale Italia, adesso sto girando, sto per entrare a Sassari, Sta arrivando fortissimo, 9 più 15 qua, vabbè, già siamo abbastanza vicini. Vediamo se Claudio è rientrato. Ci sei Claudio? Deve girare il cinghialetto, cacchia. Tutti i cinghiali si ha preso dalla zona, non ce n'è più, cacchia. Vabbè, sono contenti i pasturi almeno, che non li ammazza le pecore e il bestiame. Ok Cristian, e tu com'è andato il Natale? Tutto bene, dai, grazie a Dio tutto benissimo, senza problemi, dai. Ma sei in movimento? No, mi sono fermo adesso, mi sono di Pisa, da un amico e sono fermo adesso. Ah cavolo, sta andando bene, per essere in cosa? In macchina sta arrivando quasi 9:10. Un attimino, guarda, non la lemmo mio, ho fatto 1,5 metri, amico. Non è che abbia tante cose in macchina. A me mi ascolti bene? A te sempre bene, caro. Ok, meglio così, dai. Ok, Carlo, avanti a te il maestro. Io adesso sono in Italia, adesso mi dovresti sentire ancora meglio, dai, ormai sono dentro la città. Niente, Cristian adesso lo sentivo più basso, i primi passaggi lo sentivo meglio, adesso un po' si è abbassato, però ho capito che è in macchina, ma non so in che zona sia lui. Non so se ti abbia ascoltato Cristian, Santa Maria di Pisa è fermo in macchina comunque, io l'ascolto molto bene a Cristian. In Italia tu sei già arrivato? Non lo sento più adesso. Adesso mi senti? Sì. Adesso mi sono movimento verso zona di... Noi ti ascolto sempre, no, vai qua, sì. Cristian, mi scusa, Carlo, l'hai ascoltato a Cristian? Sì, adesso l'ho sentito che ha parlato, ma era incomprensibile. Io sono vicino ai carabinieri qua, via Milano, dai. Si vede dallo Smith, mi è arrivato tutto bello, adesso sei talmente a forza. Così Claudio sta rubando cinghialetti. Il cinghialetto dice che le hanno regalato, 3 mesi mangia dei cinghiali e porcetti, Claudio. Beato a lui. No, io carne zero, quasi niente, dai, mangio pesce, carne, poche cose, proprio fate come dico io, quelle arrostite bene, ma carne grassa neanche a vederne, infatti quando mi regalano e porcetti, agnelli e cose, dico cinghiali li regalo sempre. Io sono veramente quasi carnivoro, diciamo per l'età, per il pesce lo mangio molto volentieri, guarda, perché amici pescatori li hanno portato a casa. No, io di carne mangio tutti gli affettati, li mangio il salsiccione, fatto come dico io arrosto, qualche fettina di cavallo sottile, il pollo arrosto, però tutte le altre carne preferisco non mangiarle, preferisco 10.000 volte il pesce, tu mi puoi dare qualunque pesce e te lo mangio, a parte vabbè non è che non li mangio, però non è che mi attirano molto i serpenti, diciamo dal coso, dalle anguille alla cosa, come si chiama, la murena, il grongo, no, quelli preferisco non mangiarli, però tutti i pesci, tutti i crostacei, tutti i cozze, polpi, molluschi, tutto mangio. Ok, vediamo Carlo dove è arrivato, adesso sarà a bomba vicino a me, mi immagino. Guarda, sono alla rotatoria, diciamo, giù in basso, diciamo inizio la salita adesso verso il rifornitore che c'è della Esso. È 9:40, sei qua già. E ormai sono vicino a casa tua. E vediamo se Claudio è rientrato, perché adesso mi devo allontanare io, così lo saluto. Claudio, ci sei? Vabbè, dai, salutatelo voi da parte mia. Comunque, vai, se dopo c'è qualcuno ci sentiamo. Ciao Cristian, ben sentito, e ciao Carlo, idem la stessa cosa. Ben sentiti a tutti e due, che faccio corretti, dai, ci sentiamo magari più tardi se coincide, se no eventualmente alle prossime. Ciao ciao a tutti di nuovo, e anche gli amici in ascolto. Nessun problema, ciao. Claudio? Chi è? Antonello? Ma che bip? Siete andati via? Vabbè. Attenzione di... Attenzione 10 per una prova radio. 1, 2, 3, 10, prova radio, prova radio. Sempre pronto, vamos. Ah, ma sto uscendo, sì. Alla grande, alla grande. E questo è quel baracchino, questo è un miracolo proprio, questo è un miracolo. No, oh, sta andando, sta andando. 9, 10, abbondante, radio super 5. Va bene, c'è solo da rimettere in linea alcune cose, vedere un po' in bagno la terra, un po' di cose, ma il 90% è fatto, era impossibile secondo me rimetterla a posto, era giusto una sfida, ma forse ci siamo riusciti. Ma tu nelle sfide ne sei sempre vincente, lì il problema. Va bene Fabri, ottimo segnale, ottima radio. Va bene dai, proseguo un attimino, magari ci sentiamo dopo, domani. E io sono ascolto, io stavo cucinando ma ti ho sentito. Va bene, ciao. E grazie, ciao, tanto anche fra un po' mi arrivano le pizze e mangio qualcosa. Lavorare devi, no? No, domani mattina. E allora stasera te ripusci. Dai, se vuoi ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, dopo. Cos'è questo cane?